Siamo state convocate anche noi. Assolutamente. Grazie mille, grazie. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Suarez, punta ancora David Luiz, altro tunnel, Suarez! Ha fatto abbattere David Luiz due volte e il pistolero! Ciao a tutti! Daniele Bonamici, professor Marco Tulli, redazione Pietro Lacorte in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, com'è laggiù nella città dei lupi, non del popolo, Lupi e della Volkswagen. Della macchina del popolo. Macchina del popolo. Bello, bello. C'è un gran sole, fa freschino, diciamo. E c'è ottimismo, no? Cioè, cauto ottimismo. No, il Wolfsburg è fortissimo. Se leggi i numeri del Wolfsburg ti metti paura. Sì. 9 vittorie consecutive in casa, una sconfitta nelle ultime 23 partite, però... Poi alla fine, insomma, uno prepara... Basta non leggere, dai. Come dicono quelli, no, ma i giornali non li leggo perché mi fanno incazzare. Grande equilibrio, nel senso che ci sono buone qualità tecniche da una parte e dall'altra. So, se il Napoli recupera un po' di spirito, come si è visto con la Fiorentina, per me se la gioca. Saluto il direttore Alessandro Vocalelli, ciao! Ciao, buongiorno a voi ascoltatori. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Il Barcellona va già a qualificarsi a Parigi. Il Bayern, inguardabile in difesa, si condanna a un'impresa beccandone tre dal porto. Alessandro. Non vorrei essere il porto, No, non vorrei... No, perché credo che il Bayern lo puoi sorprendere una volta. Magari poteva succedere, appunto, magari se fosse successa la partita di ritorno, poteva creare veramente qualcosa di inaspettato. Quando si creano le premesse per cui il Bayern sa che non può sbagliare, secondo me è difficile che sbagli. Sì, su questo sì, è un Bayern ridotto ai minimi termini dagli infortuni, ma questo non giustifica, ha fatto una pessima figura comunque in Portogallo. Invece a Parigi il Barcellona si è già qualificato praticamente. Sentiamo Blanco e Luis Enrique dopo la partita. In questa partita Barça è stato superiore a Parigi in tutti i punti di vista, no? Quindi era difficile di accettare, però lo dobbiamo accettare su questa partita e speriamo di provarci, che meritava, possiamo fare molto meglio in la partita di ritorno. No, 0-3 sarebbe stato molto meglio. Beh, insomma, sei un po' esagerato. No, sono soddisfatto perché ho visto la squadra molto bene. E oggi credo che sia in l'aspetto offensivo sia in l'aspetto difensivo siamo stati una squadra di altissimo livello. 800240024, il vostro numero verde. Pierluigi, Suarez gli ha fatto li bozzi al tuo amico David Luiz. Oggi su Twitter, foto a raffica. Ne sto guardando una mentre tiene in braccio un pupo, il morsicatore tiene in braccio un pupo con la faccia riccioluta di David Luiz. Sì, ecco, direi che qui non vorrei essere il pupo, se mi consenti una battuta, mi dovesse prendere il raptus, povera creatura, sto scherzando. Suarez è un giocatore che conosciamo benissimo, un giocatore di enorme qualità, non è che c'è da discutere su questo. È un giocatore abbastanza umorale, nel senso che comunque ha avuto alti e bassi in carriera e ha avuto soprattutto 2-3 incidenti di percorso dal punto di vista comportamentale che l'hanno in qualche modo depotenziato agli occhi del mondo, ma fino a un certo punto, perché poi il Barcellona l'ha preso ugualmente, quindi e ha costruito l'attacco perfetto. Esatto, e sì, se devo dire che il Barcellona è per certi versi anche un po' una sorpresa, no? Perché sì, è chiaro che se tu guardi quell'attacco lì e pensi che sia la migliore squadra al mondo nonostante tutto, però è vero pure che veniva da situazioni, comunque da una stagione nella quale il Real Madrid aveva vinto la Champions con un allenatore per questo tipo di livello emergente, quindi con tutte le incognite del caso, E poi chiaramente non è che ancora possiamo dire che il Barça abbia fatto dama, no? Nel senso che no. È ancora aperto con due punti di vantaggio sul Real. La Champions è possibile, ma non è ovviamente scontata per nessuno, quindi è molto divertente, molto divertente. Io sono contento per Luis Enrique, te lo dico sinceramente. L'Italia ha fatto delle cose dimostrando di essere ancora molto acerbo, però insomma, secondo me lui portava avanti comunque un bel messaggio. Poi ha fatto un unico vero grande errore, che è stato mollare improvvisamente dopo quel Roma-Fiorentina, sì, a scaricare tutti, prima di tutto se stesso, e lì si è visto che non era ancora pronto dal punto di vista mentale per allenare una grande squadra. Però dei segnali interessanti in quella Roma lì Gli aveva comunque lanciati. Ma d'altra parte sappiamo come Roma sia qualcosa di difficile. Comunque voglio dire, Luis Enrique è banalmente la prova provata di quanto, per carità, siano importanti gli allenatori, ma quanto siano importanti i giocatori, perché lui sarà pure migliorato, sarà cresciuto, avrà fatto esperienza, però con tutto il rispetto la Roma giocava con José Angel, Kier, e lì si trova con Suarez, Messi, Neymar. Insomma, io credo che la fortuna degli allenatori la facciano poi i giocatori, e questo è veramente la dimostrazione, perché io non credo che in due anni uno possa cambiare così tanto dall'essere quasi un disastro ad essere quasi un condottiero. Sì. Dopo aver preso le misure, perché con Messi c'è stato qualche attrito iniziale, poi il Barcellona ha preso l'abbrivio e nel 2015 è onestamente una squadra irresistibile. Dopo il traffico però parliamo di Champions League con Alessandro Lucarelli, Pierluigi Pardo, parliamo anche con voi naturalmente, 800 24 00 24. Però a Roma sta succedendo anche qualcos'altro, cioè questa grande battaglia per iscritto, per il momento, tra Pallotta e gli ultra. Vi voglio far sentire una voce da Radio Romana. Ma io sono uno di quelli che va allo stadio, uno di quelli che c'ha Sky, uno di quelli che dà i soldi a Pallotta, uno di quegli idioti che dà i soldi a Pallotta, perché quelli che vanno allo stadio, che usano diciamo lo Sky o sta roba qua, o usano il marchio Roma, no? Certo. Comunque sia, le entrate vanno a Pallotta, no? Certo. Perciò noi siamo quelli della stragrande maggioranza di quegli idioti che danno i soldi a Pallotta, ma come si permette? Quindi vale il messaggio: this fucking idiot gonna pay you, quello che stava scritto sullo striscione a Trigoria. Strade. Messi, adesso spazio, c'è Neymar largo, tutto solo, servito Neymar, in area, Neymar! Si è addormentato il Paris Saint-Germain, Messi e Neymar ne approfittano, segna il brasiliano, 1-0. Tutti convocati. Convocati. Tra poco torniamo sui sogni della Juventus, sulla Champions, sul Barcellona, sul Paris Saint-Germain, su quello che vi pare, ma volevo un commento di Alessandro Vocarelli, poi naturalmente di Pierluigi Pardo, ma ne parleremo anche più tardi, su questo tweet di Pallotta che apre di fatto la battaglia con i tifosi. Scrive, lo ricordo, i veri tifosi non fanno commenti razzisti, non tirano merda sui giocatori che si stanno provando, non creano situazioni violente che poi pagano gli altri. Nella partita contro la Fiorentina un piccolo gruppo ha chiamato la squadra sotto la curva e l'ha insultata. La merda è quella. Non ha usato francesismi Pallotta, Alessandro. Sì, che ti devo dire, che la condanna di chi sbaglia, non è quello striscione, era inaccettabile, orribile, perché secondo me non si può mai sindacare quello che di più sacro c'è, cioè il dolore di una mamma che ha perso un figlio, per cui quello lo trovo veramente fuori luogo. Però io mi domando anche, ma adesso il campo si è di molto allargato, sì, però appunto io mi domando che si è fatto però per tutelare quelli che comunque ci stanno in curva, come che non c'entrano nulla e che vedono la loro responsabilità individuale di persone che non hanno fatto nulla accomunata a quelli che hanno sbagliato. Per cui ecco, io mi chiedo anche, è giusto condannare anche pesantemente chi commette degli errori, ma sarebbe giusto anche salvaguardare chi magari a 100 metri, perché una curva è bella, bella lunga, a 100 metri di distanza, 50 metri di distanza non c'entra niente. Dice, vabbè, ma la curva anche chi non c'era, anche chi non c'era direttore, perché voglio dire, siamo in quest'epoca qui dell'automazione, di internet, della tecnologia, dei nominativi. se io quel giorno lì stavo facendo Pasquetta, ero fuori per lavoro e sono campionato alla Roma e quella partita non ci sono, ma perché mi deve essere tolto il diritto quando è dimostrato che io quella partita lì non c'ero e non potevo far nulla? Il principio della responsabilità oggettiva rischia di creare casino, perché rischia di creare nell'opinione pubblica romana, anche in quella di chi in queste ore ce l'ha con Pallotta, l'idea che ci siano due pesi e due misure. La condanna morale per quegli striscioni è totale, senza se e senza ma. Però questa squalifica è una squalifica che secondo me rischia di creare più casino che altro, ulteriore, perché è una squalifica che appunto applica un principio di responsabilità oggettiva e Pallotta l'ha detto chiaramente, lui oltre certe cose non può far nulla. Sì. Dalle istituzioni datemi una mano. Sì, però detto questo io continuo a pensare che abbia fatto un gesto dovuto nel non fare ricorso, direttore. Ma perché? Ma lui doveva secondo me spiegare che lui faceva ricorso non per quelli che hanno sbagliato, anche che avrebbe perseguito, cercato e punito anche personalmente, ma lo faceva per quelli che non c'entravano nulla, perché ripeto, un tifoso oggi tra l'altro, si è stato detto per anni, va allo stadio, si sono messi i tornelli, i posti numerati, i certificati di qualsiasi tipo per poter entrare allo stadio. Se io entro e sono in grado di essere identificato che non c'entro nulla, perché devo pagare? Dice, vabbè, ma quelli della curva dovevano dissentire, e io ho sentito anche questi, che quelli che stavano in curva dovevano dissentire. Ma allora mi domando, ma perché dovevano dissentire solo quelli che stavano in curva e non anche quelli che stavano in tribuna Tevere, in tribuna Montemario, in tribuna d'onore? Se uno sente giustamente il dovere di dissentire, non è semplicemente perché occupi lo stesso luogo fisico, dovevi dissentire anche dalla tribuna d'onore, prendere e andartene, anzi che l'hai visto. Tra l'altro in punta di pieno diritto, secondo me questa sentenza è fallace, perché per quanto terribile, tremenda, e lo ribadisco a costo di essere Pallotto, quantesima volta, quello striscione mi fa schifo, mi fa orrore. E fra l'altro vicino a quello striscione ce n'erano altre, c'era una in giro con l'immagine di Sandra, c'erano delle cose bruttissime. Ma quello non è detto questo, non c'era nulla, secondo me, da un punto di vista del diritto, che potesse portare a una squalifica, nel senso che alla fine siamo in un ambito, in una situazione che addirittura potrebbe essere considerato opinabile da un punto di vista di stretto diritto, no? Che il riferimento fosse, cioè, tu alla dici, vampa di Ciro. Poi il giudice ha voluto dare una condanna esemplare, poi mettendo insieme diverse cose. Secondo me sì, detto questo, la cosa più importante è la battaglia culturale, per cui alla fine poi il diritto del tifoso abbonato che è stato leso e che non c'entrava nulla, posso anche arrivare a pensare che sia un discorso che perde significato di fronte alla battaglia più grande che abbiamo davanti, che è quella di togliere tutto questo tipo di situazioni. Questo vale per tutti, vale per Superga, vale per Paparelli, vale per De Falchi, vale per, l'abbiamo detto mille volte, per Pessotto. Sì, sì, ma infatti credo sia questo il senso del comportamento di Pallotta. Oggi lo Tito ne ha parlato, Pallotta è stato l'unico a parlarne, tra l'altro. Pallotta sta facendo una cosa che, forse perché vive in un altro continente, forse perché se stai davanti alla tastiera a Boston, dall'altra parte dell'oceano, hai comunque una distanza fisica che ti separa, tra virgolette, e ti protegge da certi fuori della piazza, però ho fatto qualcosa di importante. E secondo me è giusto quello che oggi scrive, ad esempio, la Gazzetta in prima pagina. Non lasciamolo solo, nel senso che comunque Pallotta sta portando il mondo del calcio italiano. Sarà molto difficile, ti posso dire. Ti posso dire, no, ma poi ti spiego anche perché, ma pubblicamente sarà molto difficile trovare, soprattutto tra i suoi colleghi, delle voci di consenso. Se me lo permettete, però, vorrei tornare per chiudere il discorso anche con Alessandro Vocalelli su quanto abbiamo visto in Champions. Di questi fatti torneremo a parlare dopo. Per questa Champions c'è chi dice, direttore, per la Juventus si potrebbe disegnare davvero la grande occasione. Ci sono un sacco di piccoli segnali, te li immagini? Barcellona, Porto, Atletico Madrid, Juventus ai quarti, non è così bizzarra questa ipotesi? No, è nell'ordine delle cose, perché l'Atletico Madrid, che tra l'altro raramente perde in casa del Real Madrid, è successo anche in campionato, ha la possibilità di andare lì e fare anche 1-1, non dico vincere, ma fare un pareggio con gol e quindi qualificarsi. Ti ripeto, io penso che il Bayern se la farà, però no, è nell'ordine delle cose. È chiaro che trovarsi in semifinale con il Bayern e il Real Madrid è una cosa, con Atletico Madrid e Porto è assolutamente un'altra. Però cioè, io credo che bisogna avere fiducia nella Juve a prescindere dagli avversari. Mi sembra che stia dimostrando di essere una squadra matura, più forte, più matura di quello che un po' tutti immaginavano, per cui intanto bisogna eliminare il Monaco, che non sarà una cosa semplice, poi però andare avanti e contare sulle proprie forze, insomma, non lo so, è chiaro che Juve-Porto sarebbe meglio da un punto di vista tecnico, però anche un bel Juve-Barcellona, Juve-Real Madrid. Sì, serve il grande avversario per avere una misura completa e definitiva, no? Perché tanto di lì devi passare, quindi... È più facile la grande squadra affrontarla in partita secca che in doppia partita. Certo, quindi, Pier, però a questo punto diventa quasi inevitabile. Sì, ma voglio dire, allora, detto fra noi, se la Juve passa il turno col Monaco, la stagione europea è un successo, senza se e senza ma, perché comunque aver riportato la squadra italiana a riportare sugli juventini saranno facendo gli scongiuri, ma ripeto, in quel caso lì sarebbe sicuramente un successo indipendentemente da come andrà a finire. Poi è ovvio che a quel punto, se dovesse passare il Porto, potrebbe essere una piccola scorciatoia, perché poi è chiaro che una come il Barcellona, il Real o l'Atletico la devi affrontare, però è anche vero che un conto affrontarla in finale della partita secca, dove è più facile il confine, no, fra l'errore, il palo, la palla spizzata, la situazione palla negativa, su 180 minuti è chiaro che c'è un po' più spazio per marcare la differenza, ammesso che esista, perché poi la Juve magari, se il Porto batte il Monaco, la Juve perché non deve poter stare a giocare con Real Madrid, faccio per dirti, sì, è la dimostrazione che poi gli equilibri sono anche per tutti. Però Luigi, il tuo discorso è perfetto. È anche vero che se tu vai in semifinale con il Barcellona, il Real Madrid e il Bayern Monaco e dici le quattro semifinaliste di quest'anno sono state Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Juventus, certo. È una bella soddisfazione comunque, era un bel traguardo comunque. Sì. Grazie Alessandro. Buon lavoro. Grazie Alessandro Vocarelli. Prima della borsa, Pier, vorrei parlare con un ascoltatore, ce ne sono già diversi in linea. Salvo Catania, buongiorno. Sì, buongiorno mia gente, buongiorno. Io le dico la verità, non volevo chiamare oggi, ma quando ho ascoltato il tifoso romanista della Radio Romana, poi le vado ad ascoltare anche altre cose. Sì, perché io voglio dire, cioè, lui allo stadio non vorrebbe pagare, cioè nessuno punta la pistola a sti idioti, poi allo stadio non si va con la pistola, non si va ad insultare gli altri. Allo stadio si va per tifare, saper perdere, saper vincere. No, è come se quasi De Santis sta diventando una vittima, ecco, questo volevo dire, per i tifosi romanisti. Per i tifosi romanisti, attenzione, no, per l'opinione pubblica. No, bisogna comunque distinguere per i tifosi romanisti, sì, per una frangia di tifosi romanisti. Infatti io parlo del gruppo, di quel gruppo che noi, cioè, sappiamo noi, il gruppo che ha preso le distanze Pallotta, ecco. Sì. Adesso loro ce l'hanno col presidente, ecco. Dimmi, per questo la Roma non vince mai, anche per, secondo me, per questi tifosi che non li lasciano lavorare bene, io non lo so, questo è un tema, secondo me, è il tema che in qualche modo Pallotta ha introdotto, nel senso che noi spesso siamo abituati a sentire da parte dei diretti interessati, dei protagonisti, dei discorsi un po' da 0-0, tutto il rapporto con le tifoserie e con le curve. Nel senso che ci sono, ed è vero, è chiaro che le curve sono importanti, io poi sapete come la penso, sono contro le generalizzazioni, l'idea che le curve debbano essere demonizzate tout court non mi piace affatto, l'ho detto mille volte e lo ripeto, però spesso c'è questo tipo di ragionamento, no, da parte dei protagonisti che ti dicono questo pubblico meraviglioso, questa curva, la spinta dei nostri tifosi, e quando c'è invece da condannare fanno un po' più i vaghi. Qui Pallotta essenzialmente ha detto una cosa diversa, non è entrato nel merito della vicenda giudiziaria, della quale non gliene può portare di meno, nel senso che comunque chiaramente stiamo parlando, mentre qua c'è uno a mettere la tecno della macchina vicino, chiedo scusa, che fa? Non è colpa mia. Che sta fa? E mette musica tecno, senti questo. No, non si sente. Pallotta qui dice una cosa a suo modo rivoluzionaria, cioè dice questi tifosi danneggiano la squadra. Sì. Ne fa un discorso aziendale, aziendalista. E secondo me ha ragione. Dice, questi tifosi non vogliono il bene della Roma. Questi tifosi col loro comportamento hanno portato a una squalifica che ci fa affrontare la partita contro l'Atalanta, certo, che è una partita importantissima, stanno cercando di boicottare comunque, inviano messaggi per uno stadio vuoto in una partita così importante. Io credo, a un discorso che abbiamo fatto anche ieri, che sarebbe stata la stessa cosa anche se la Roma fosse stata in lotta per lo scudetto, perché è qualcosa di che va oltre i confini del risultato agonistico, oltre i confini del tifo. C'è gente che fa questa professione e dunque fa i suoi interessi. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo subito. Beh, mica male, eh? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta resti in coda. Basta con le code agli sportelli, vai su pratiche.it. Con un clic richiedi certificati, visure e oltre 70 documenti della pubblica amministrazione. Pratiche.it te li consegna online, a casa o in ufficio. Pratiche.it, addio code, un servizio a Aruba. Preghiamo i signori passeggeri di recarsi al gate 2 per l'imbarco. Vi ricordiamo che l'assicurazione dell'auto è in scadenza. Ultima chiamata per il signor Rossi. Ricordiamo di rinnovare il bollo e la manutenzione annuale. Se i pensieri legati all'automobile ti seguono dappertutto, pensa all'Isplan, il noleggio a lungo termine che ti fa scegliere l'auto che desideri con tutti i servizi inclusi. Così hai tutto il piacere dell'auto senza pensieri. Un esempio? Fino al 30 aprile, nuova Ford Focus da 225 euro al mese per 36 mesi e 30.000 km totali. Isplan, oggi si guida così. Info su isplan.it. Autista, segua quel veicolo. Ma per chi mi ha preso? Per Visiran. Controlla, gestisci e segui la tua flotta in tempo reale comodamente dal tuo PC, tablet o smartphone. Con Visiran, a partire da soli 19 euro al mese, potrai gestire i tuoi veicoli sulle mappe, prevenire furti di carburante, controllare le ore di guida, comunicare direttamente con gli autisti e tanto altro ancora. Vuoi saperne di più? Vai su visiran.it per una prova gratuita. Visiran. Se non vedi, non sai. Se non provi, non capisci. Con i primi soli gli esemplari escono dalle tane, la pelle si ricopre con i caratteristici guanti e sulla testa spunta il casco. È la stagione dei motociclisti. Arriva la primavera di Honda. NC750X ABS è tua con vano portacasco integrato da 6.490 euro FC, anche in versione con cambio DCT, presso le concessionarie Honda che aderiscono all'iniziativa. Ogni giorno percorrono le strade del mondo, ma stavolta si ritrovano tutti qui per ripartire insieme. A Verona Fiere, 16-19 aprile, Transpotec e Logitech 2015, il salone dei trasporti e della logistica. Truck, veicoli commerciali, allestimenti, test drive, passione e divertimento. Ti aspettiamo, perché insieme abbiamo una marcia in più. Registrati su www.transpotec.com. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. Oggi sempre di più. Arriva nuovo Mokka GPLTEC. 140 cavalli e un piano con soli 22 euro. Gamma Opel Mokka. Completo di tutto da 16.900 euro, sabato e domenica. Tutti convocati. Questa non è Roma, è Bergamo. Vi gira la partita con il Sassuolo. L'immagine è questa: tribuna del campo. Questo che avete sentito parlare, il Boccia, il capo degli ultra atalantini, in piedi, che arringa i giocatori a capochino, lì con le braccia conserte, la testa bassa ad ascoltare, e tutto intorno gente che ride e che applaude. Questo lo scenario di Bergamo, diventato ben noto, no? Pierluigi, sei ancora libero? Sì, ci sono. Sì, ma il concetto è sempre lo stesso. A me, è una cosa che fa impazzire questa qui. Cioè, non sopporto questo tipo di confronti. Mi dà proprio fastidio fisico. Il supporto delle curve, l'abbraccio delle curve, sappiamo che è benzina positiva per le squadre ed è, secondo me, nasce come una forma di aggregazione molto sana, e molto spesso è una forma di aggregazione molto sana. Poi, nel momento nel quale diventa ricatto, nel momento nel quale diventa business, nel momento nel quale diventa così, appunto, intimidazione, allora non va più bene. O nel momento nel quale lede di fatto il diritto al tifoso, tra virgolette, normale, che canta pure lui, paga il biglietto pure lui, di poter andare allo stadio o di poterci andare in serenità, allora diventa qualcosa che non va. È proprio semplicissimo. Ho anche il sospetto che a questi del tifoso normale non gliene freghi niente, cioè degli altri che stanno con loro non gliene freghi niente. Apriamo un confronto che siamo abituati a vedere spesso sul palco di Tiki Taka. Paolo Liguori, direttore, buongiorno. Buongiorno a tutte e due. Che ne pensi? Ho sentito quello che diceva Pierluigi. E mi dispiace veramente, perché sembra che facciamo il teatrino, il politicamente corretto. Sono quasi totalmente d'accordo. Guarda, io dico di più, sono un po' diverso da lui, perché io sono a favore del tifo ultra, sono a favore delle curve, ma pure lui diceva le stesse cose prima. e però ci sono delle cose che sono intollerabili e sono le infiltrazioni dentro le curve, perché di questo stiamo parlando, sì. Infiltrazioni dentro le curve di gruppi organizzati altrove, a prescindere dal calcio, certo. Che hanno i loro interessi e ci lavorano. Che sono gruppi pericolosi, sì. Che sono gruppi temuti da tutti, sì. Che sono gruppi che è inutile adesso stare a fare le cose finte. Non è che per colpa della squalifica tanti tifosi non potranno andare in curva a vedere Roma-Atalanta. Per colpa di questi gruppi tanti tifosi già non vanno più allo stadio in molte occasioni. Però, in molte occasioni hanno abbandonato gli stadi, hanno abbandonato le curve perché piace a tutti stare lì quando il clima è buono, ma quando c'è aria di clima meno buono. E devo dire che a Roma questa cosa è vera, e particolarmente lo era anche nell'altra squadra, lo era per, sì, la Lazio. Bastate, insomma, se noi facciamo un bel screening di quella vita che ha fatto lo titolo negli ultimi anni, sapete tutti, gira sotto scorta, è stato denunciato, gli hanno combinato di tutti i colori. Per la Roma è diverso perché la proprietà è cambiata molte volte. Comunque cominciavano già appena dopo la morte di Franco Sensi, sì. E poi hanno continuato perché non c'è stata una società. Ma che ne pensi del comportamento di Lotito? Di Lotito che ha parlato oggi dicendo, ormai parla in terza persona, le parole di Pallotta, Lotito questo lo dice a 10 anni, Pallotta sta seguendo quello che dice Lotito. Non è Pallotta che ha ragione, è lo sport che ha ragione, sono stato il primo 10 anni fa a combattere Lotito. Lotito c'ha anche il suo carattere, sì. Insomma, le motivi per cui criticarlo, però sulla sostanza è vero che Pallotta fa quello che ha fatto in altri modi, in altre circostanze, lo dico, non ha dato la sua complicità a delle cose che non poteva. Ma oggi io sto parlando da voi, ma spero che mi ascolti, non c'è chi naturalmente ci riempirebbe di insulti e chi se ne frega, insomma, poi non importa, per le nostre opinioni va bene, però spero che mi ascoltino quei tifosi che vengono abbindolati da questo tipo di demagogia. A Roma sono tanti, ci sono le radio, ci sono tanti. Pure lì bisogna parlarne, bisognerebbe parlare una volta fuori dalla umertà, e che oggi ci dicono noi siamo contro Pallotta, siamo solidali. Io ieri ho parlato anche con degli amici litigando, ragazzi, in questo momento si sta manifestando una complicità, se tu c'hai questo atteggiamento sei nella sostanza complice della confezione di quegli striscioni che sono, al di là delle parole, sono comunque stati ispirati da una volontà di insultare, umiliare una donna che ha perso un figlio, si certo. Parla del figlio, sì, morto. Qua, comunque qua il discorso si è allargato, nelle radio romane, pertanto per dare un esempio si parla così. Io, guarda, sullo striscione non vedo niente d'offensivo, sinceramente non c'è niente d'offensivo. Se poteva pure non fa, comunque, quello è un altro discorso. Serviva una multa, non una cosa esemplare come ha detto da vecchio. Ma ragazzi, ma ci possiamo stiamo prendendo come paragigma da vecchio. Ma c'è ragione questo ascoltatore, cioè noi ci abbiamo, i nostri fustigatori di costumi sono da vecchio e Malagò, avete capito? In queste settimane, in questi mesi non è successo praticamente, e meno male non è successo nulla, è successo soltanto che stavano tirando fuori un paio di striscioni assolutamente disdicevoli che sono stati presi a bomba da questo presidente molto molto intelligente, eccetera. Adesso voi mi dite chi lo ferma a fare lo stadio, anche se fosse un po' non regolarissimo, chi lo ferma? Chi è che gli dice a Pallotta in questo momento non deve fare lo stadio? Perché cosa ti cominciano a fare adesso tutta l'intelligenza, i radical, eccetera? Ecco, è arrivato un americano che vuole fermare la violenza e non gli fate fare lo stadio. Penso succederà. Quest'uomo è un genio. Cosa ne pensi, Pardo? Ma penso innanzitutto che se Pallotta fa lo stadio per un tifoso della Roma è una buona notizia. Farsi pensare quello che è successo alla Juve in questi anni, lo stadio sappiamo che all'inizio è un investimento ma poi diventa un modo per far soldi 365 giorni all'anno, che non è molto romantico da dire, ma insomma poi non è romantico, però poi magari ti comprano i Tevez di turno, no? Il grande giocatore, e a quel punto poi diventa improvvisamente, sì, romantico questa, no, idea. Ma comunque l'idea comune è che Pallotta sia un furbacchione, no? L'idea che passa da queste parole. Ma secondo me Pallotta non è affatto un furbacchione, insomma, io. No, ma lo dico loro, è un uomo. Sì, sì. D'accordo, sono d'accordo. Posso essere d'accordo sul fatto che poi chi ci rappresenta nelle istituzioni, nella prima parte del ragionamento, no, al di là dei personalismi. Tante volte uno dice la politica è corrotta e poi si chiede, però non è che siccome la politica è corrotta o le cose non funzionano allora ti puoi comportare male, no? Che era la prima parte del ragionamento. Io ho contestato la famosa battuta di tipo Ba e credo che Tonata Vecchio quella se la potesse risparmiare decisamente, eccetera. Però detto questo, poi non è che siccome allora Tavecchio è il presidente federale allora si può fare quello che vuoi, perché tanto c'è uno che ha fatto quella battuta lì. Quindi su quel tipo di ragionamento non ci siamo. Sul fatto che la stagione della Roma, da un punto di vista di ordine pubblico, per quelle che potevano essere le incognite, stia andando alla fine facendo tutte le corna del mondo in maniera abbastanza positiva, perché bisogna ricordarsi il clima col quale si era arrivati a questo inizio di stagione. Invece la cosa più brutta che abbiamo visto è stata sicuramente fatta dai tifosi olandesi a Piazza di Spagna. Questo è vero, è indiscutibile. Detto questo, poi non capisco il ragionamento, mi sfugge il ragionamento, non credo che sia un ragionamento, non credo che sia furbo Pallotta nel fare quel discorso, se lui lo pensa. E penso che la squadra ha un danno, perché comunque la curva sud quando il punto è questo, sud come qualsiasi curva, ma insomma la curva della Roma è una curva calda, è una curva che può fare la differenza, l'ha fatta mille volte dal punto di vista dell'attaccamento ai colori, quindi se a Roma Atalanta mancherà. Certo, però Pallotta sta facendo una campagna contro quelli ai quali, secondo me, al di là dei loro interessi, di tutto il resto importa pochissimo. Io devo Pallotta sta cercando di convincere la famosa maggioranza silenziosa, la famosa a schierarsi, che questi e sarà difficile. Qui in realtà stanno facendo un danno alla squadra e sarà difficile. E io dico anche che non troverà neanche grandissimi sostenitori nella sua battaglia. Per dirti un esempio, abbiamo provato a cercare un paio di presidenti stamattina, ma di questo nessuno vuole parlare. Nessuno vuole parlare. Devo salutare Pardo. Paolo Liguori, hai altri due minuti per me? Sì, volentieri. Tanto così ti faccio sentire, così ti faccio sentire gli ascoltatori che hai invocato, che cosa hanno da dire. Sì, c'è. Traffico. Tutti convocati. Strade in diretta. Ben ritrovati, è stata riaperta la 14 Bologna-Taranto, chiusa in precedenza per incidente, ora risolto, tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. In questo tratto si verificano code di circa 2 km, ora in rapido smaltimento. Più a sud, traffico in aumento intorno a Roma, primi incolonamenti sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Per ora queste sono le maggiori informazioni, vi invitiamo comunque a consultare il sito di Radio 24 per un quadro sulla situazione della viabilità. Noi ci risentiamo più tardi. Tutti convocati. Io sono convinto, arciconvinto, che a lui non gli interessa assolutamente niente dei tifosi, della madre De Ciro, delle curve, zero. Ma è uno che ha rincorso un altro che gli ha dato rigore, come che si è dato? Un arbitro del basket ha rincorso per mezzo lo stadio. Perciò è uno focoso, mica che sto dicendo che è una cattiva persona, per carità. È uno focoso, eccetera. Perciò se fosse. È uno che lo stile Juve, perché bisogna seguire lo stile Juve? Bisogna seguire lo stile Juve perché la Juventus gli ha dato una grande mano per entrare nei salotti buoni di Roma con lo stadio. Altro spaccato di Radio Romane, sempre Paolo Liguori collegato con noi. Mi segnalano opportunamente che anche la Juventus aveva condannato in maniera più sobria degli striscioni che erano apparsi, canaglia che erano apparsi nel derby, e poi aveva messo i bambini in curva, eccetera. Quindi anche la Juventus qualcosa non sta più triste. Adesso voglio. Dimmi. Qua siamo in una radio che ha alle spalle un editore di forte impostazione economica, no? Io non credo che ci sia nulla di male, voglio portare il ragionamento, io penso in un posto dove tutti possono arrivarci. Se io decido di fare un investimento, che è una cosa grande come lo stadio, ma è normale a Torino o a Roma, è normale che vedo in questo tipo di gruppi organizzati, non parlo di ultra, non parlo della curva, parlo di quello di cui parlavo prima, gruppi organizzati che impongono le loro decisioni anche alla curva, che trascinano la società in una sorta di spirale di ricatti, sì, di minacce, e sono i miei primi nemici, per me che devo fare l'investimento. L'investimento deve essere pulito. Noi leggiamo sui giornali tutti i giorni che in certe zone del sud Italia non vanno volentieri le aziende, e nemmeno quelle straniere, perché non siamo riusciti a mettere un freno ai gruppi organizzati che ricattano, che minacciano, che è un... Devi sottostare a certe logiche. È che devi sottostare. Allora, vale per Agnelli, l'esempio che facevi, vale per Pallotta, ma varrebbe anche per me e per te. Uh-huh. Ora, quando dicono Pallotta è un furbo che in America vede scoperto il marchio Roma, pensa che l'investimento, gli prospettano che l'investimento prevede anche la possibilità di fare uno stadio di proprietà, perché in Italia siamo arretrati e la Roma, come tante altre squadre, non lo ha. Allora lui sceglie da furbo di fare questo, ma io, meno male, ce ne fossero di furbi così. Questi salvano il calcio. Sicuro. Quelli che condannano il calcio sono quelli che vivono di debiti a ricarico di prestiti incredibili, che poi esplodono e ci lasciano il debito a noi. Quelli che non sono furbi così sono quelli come a Parma, che ci lasciano quello spazio. Ecco, allora, perché questi tifosi, che sono persone normali, non si guardano la mattina allo specchio? E ho sentito quello che lasciavi passare, no, delle radio romane. Uh-huh. E queste cose erano come se non esistessero. Al contrario, invece, è una leggerezza assurda quella di dire i due striscioni, però poi erano alla fine senza insulti. Ma non è vero, erano senza insulti, ma la mente che ha pensato di fare uno striscione indirizzato alla signora Learzi, che farà quello che vuole, dirà quello che vuole di suo figlio, è la madre di un figlio morto, che vale per me, no, ma anche certo, se questo... fosse la madre di uno dell'ISIS. Ma di sicuro, questo odio che viene trasmesso anche con parole in quel momento neutrali, noi lo dobbiamo immediatamente porre rilievo e immediatamente capire. Però guarda, direttore, è diventato quasi pretesto lo striscione di tutta questa vicenda, è solo il principio, è diventato pretestuoso quello striscione per la battaglia che sta conducendo adesso. C'è un certo gruppo di ultra. Tornato Pardo? Sì, perché io ho la dipendenza da tutti i convocati, di ritardare il pranzo di altri 7-8 minuti. Pardo è addicted da tutti addicted, i convocati. Sì, sì. Allora, vi faccio sentire a entrambi, Roberto da Roma, così gli rispondiamo, poi vi saluto. Roberto, buongiorno. Allora, buongiorno direttore, volevo girare una domanda a lei, che le fa le domande. Io rimango incuriosito, queste che capisco poco io, ma i striscioni che sono stati fatti a Napoli, Roma, veramente sono minacciosi. Nessuno ne ha parlato. Con questo non voglio difendere i striscioni fatti a Roma. Non è occhio per occhio, dente per dente, per carità. Guardi, l'unica cosa che voglio dirle è che non è vero che nessuno ne ha parlato. Non è vero. 30 secondi perché è fresca. Nella puntata di Tiki Taka di 2 settimane fa, lo schermone, quello enorme, e l'abbiamo anche ricordato, conteneva nella parte sopra lo striscione della partita di ritorno, nella parte sotto lo striscione minaccioso, se ci sarà. Occasione ci saranno, se non sbaglio. Dei tifosi del Napoli. Secondo me bisogna uscire da questa cosa qui. Certo, bisogna uscire da questo palleggio, perché sennò andiamo avanti per. Scusa, mi fai dire una cosa? Dilla. Sì, mi fai dire una cosa. Allora, intanto sottoscrivo quello che ha detto Pierluigi. Bisogna uscire da questo palleggio. Quegli striscioni di odio si equivalgono. Per me l'odio è il nemico del tipo, lo dico subito dal punto di vista generale. L'odio è la cosa che avvelena il tifo. Io sono per il tifo anche ultra. Quando compare l'odio, vale per il Napoli, vale per la Roma. Ma Roberto, voglio dire che deve fare lo sforzo di fare un ragionamento in più. Quegli striscioni del Napoli sono minacciosi e violenti. Quelli che sono comparsi a Roma però non si riferivano ad altri ultra napoletani, per cui questa violenza fa lo stesso schifo, ma va comunque portata da un posto all'altro. Si riferivano a una persona terza, la mamma di uno di questi. Se voi non capite la gravità di questo fatto, secondo me il coinvolgimento quasi una specie di vendetta trasversale, allora se non capite che ce l'hanno pure quelli che erano in curva sud, le mamme, allora se voi non capite che l'insulto alla mamma è peggio dell'insulto diretto, che tutte e due sono da stigmatizzare, la minaccia alla mamma è peggio della minaccia diretta, siamo a un livello addirittura superiore. E secondo me io sono rimasto colpito molto negativamente, perché sono tifoso della Roma, certo, e voglio andare a viso. Però Paolo, ti dico, adesso al di là di questa, che posso essere anche d'accordo, però ribadisco, cioè la squalifica secondo me è una squalifica appunto che rischia di essere sbagliata, perché appunto poi fa sì che possa nascere il dibattito, no? La telefonata dell'ascoltatore ci sta, nel senso che io dopo quella puntata lì, in tanti hanno detto quello striscione, cioè è ovvio che ognuno si ricorda lo striscione dell'altro, no? Se noi non fermiamo questo cortocircuito e facciamo capire che dovremmo essere tutti dalla stessa parte, io devo ricordare quando ci fu lo striscione di Superga, Agnelli lo condannò e quando ci fu riempì la curva con 11 mila bambini, polemica per la parola. Ragazzi, è molto bello, ma devo chiudere perché sennò mi sfumano. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao, domani. Grazie Paolo Liguori. Ciao. Grazie davvero. Noi riprendiamo più tardi dopo il GR. Io posso solo dire attenzione a non spegnere il folklore. È caratteristica. Tutti convocati. Sono le 15. GR24, il sole 24 ore. Sindacati e governo contro la multinazionale Whirlpool che annuncia in Italia 1350 esuberi. L'uomo fuggito con il figlio di 15 giorni, forse è in Spagna, intercettata la sua automobile. Rissa tra immigrati a bordo di un gommone, cristiani buttati a mare dai musulmani, 15 arrestati. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Whirlpool ha dichiarato 1350 esuberi in Italia, di cui 1200 nelle fabbriche e 150 nei centri di ricerca. L'azienda ha annunciato anche la chiusura della Indesit di Caserta e dello stabilimento di Albacina nelle Marche. Oltre ai sindacati, anche il governo ha espresso forte contrarietà a questo piano. È stata rintracciata in Spagna l'auto di Enzo Costanza, da martedì in fuga con il figlio di appena 15 giorni. Lo rendono noto i carabinieri del comando provinciale di Torino che sono sulle sue tracce. L'uomo però non è ancora stato intercettato e fermato. 15 immigrati sono stati arrestati questa notte dalla squadra mobile di Palermo con l'accusa di aver gettato in mare durante una traversata nel canale di Sicilia 9 loro compagni di religione cristiana. I fermati sono tutti musulmani e tra loro c'è anche un minorenne. Fa discutere la decisione del capo della polizia Alessandro Pansa di sospendere dal servizio Fabio Tortosa, il poliziotto che sul suo profilo Facebook, parlando dell'irruzione nella scuola Diaz durante il G8 di Genova, aveva affermato di voler compiere quell'azione altre mille volte. Pansa ha trasferito anche il responsabile della squadra mobile di Cagliari, Antonio Adornato, che aveva approvato la frase facendo like sul post. Mi sento una vittima sacrificale, ha scritto Tortosa, il quale annuncia un ricorso contro la sospensione. Due ore fa in Senato l'informativa urgente del ministro della Giustizia Andrea Orlando su quanto accaduto il 9 aprile al Palazzo di Giustizia di Milano, dove Claudio Giardiello ha ucciso a colpi di pistola tre persone. Il guardasigilli ha annunciato novità per la sicurezza nei tribunali. È necessario continuare a mettere in campo sforzi e risorse straordinarie per raggiungere in tempi ragionevolmente brevi standard omogenei di sicurezza degli uffici su tutto il territorio nazionale. La prospettiva dell'attribuzione al Ministero della Giustizia della competenza diretta delle spese di funzionamento di tutti gli uffici giudiziari costituisce una sfida di eccezionale difficoltà, ma che può consentire, se vinta, di orientare il modello di sicurezza del futuro secondo canoni di trasparenza, efficienza, partecipazione, condivisione, uniformità e ragionevolezza. Nel pomeriggio il ministro della giustizia incontrerà anche i procuratori generali, una riunione a cui parteciperà anche la procura generale di Milano. Tra le proposte per garantire la sicurezza nei tribunali vi sono l'ipotesi di un controllo degli ingressi con badge e metal detector più rapidi anche per dipendenti e toghe, un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine dentro ai palazzi. Il bilancio d'esercizio 2014 dell'ANAS si chiude con un utile di 17,6 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto al bilancio 2013, che si era chiuso con un utile di 3 milioni. Il bilancio è stato approvato questa mattina dal Consiglio d'amministrazione della società. Ci spostiamo in Francia. Il presidente onorario e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato in ospedale a Parigi. Secondo l'emittente Aitélé, il padre di Marine Le Pen è attualmente sottoposto ad esami. La Russia si allontana sempre di più dall'Occidente. Il presidente Putin ha annunciato che prevede di mettere in orbita entro il 2023 una propria stazione spaziale nazionale. Putin ha detto che dalla stazione spaziale internazionale, utilizzata anche dai cosmonauti russi, è possibile vedere solo il 5% del territorio russo, mentre dalla futura stazione nazionale sarà possibile vedere l'intero territorio della Federazione Russa. Sono le 15:04 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 16. Tutti convocati. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. E io voglio ringraziare i molti ascoltatori che hanno chiamato 800 24 0024 e quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere in linea, come Paolo da Napoli e Pietro da Milano. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Premessa che per me il discorso di Striscioni vale per Napoli come per Roma, come per Torino, Bergamo, eccetera. Sì. Mi chiedo però cosa doveva fare il giudice sportivo? Dare 20.000 euro di multa alla Roma? Una condanna generica, anzi il fatto che c'è stata questa reazione, secondo me in consulto da parte dei club ultras che hanno invitato tutto lo stadio a non presentarsi alla prossima partita, mi dice che è stato colpito al cuore, è andato a segno, diciamo, il messaggio, nel senso che fa male a questi tifosi, e mi dispiace per quel 90% dei tifosi di una curva, in questo caso della Roma, che ci vanno sotto. Sì. senza loro colpa. Sì, però io faccio una provocazione. Bisognerebbe mettere sui biglietti che vanno nelle curve, gli abbonamenti che vanno nelle curve, quei messaggi tipo il pacchetto per i messaggi sui pacchetti delle nuoce gravemente alla salute, magari a portafoglio, lei dice. Due cose: la sentenza del giudice sportivo che ha messo il provvedimento, mette insieme diverse cose, gli striscioni, mette insieme i cori che sono stati fatti e mette insieme un disguido che è successo, la Roma non ha comunicato all'inizio stagione, le modalità per iscritto come era previsto, modalità per la gestione dell'ordine pubblico all'interno della curva, insomma messe varie cose insieme è venuto fuori la squalifica. Secondo me che ha colpito al cuore non è stata tanto la squalifica della curva, ma il fatto che Pallotta abbia reagito come ha reagito, non facendo ricorso e con queste parole. Detto questo, io mi domando una cosa: ma fossi un abituale frequentatore mediamente sano della curva, me la dovrei prendere con Pallotta che non ha fatto ricorso o con quelli che hanno esposto i striscioni? Perché lì bisogna intendersi, o stai da una parte o stai dall'altra. Pietro, Milano, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso romanista qua da Milano, per cui l'ho chiamato. Volevo dire. Cioè, io avevo già chiamato quando erano successi questi fatti. Cioè, io veramente divento pazzo in questo paese. Cioè, due ragazzi si ammazzano e si va a vedere che squadra tifano. Io questo che resto proprio, cioè, fuori di testa. Invece di dire due giovani che hanno avuto uno scontro e uno è morto, no, si dice il tifoso del Napoli, il tifoso della Roma. Cioè, veramente divento pazzo, perché se fosse successo il giorno prima neanche ne parlava la stampa, sarebbero stati un omicidio, come succedono tanti. Invece succede il giorno della partita, sì, come con Sandri, succede a 500-300 km dallo stadio, però si va a vedere se domenica aveva la sciarpetta. Io su questa cosa qui divento pazzo. Poi sul fatto, cioè, di lei dice così, sono episodi di comune criminalità, sì, è questo che lei sta dicendo? Trattati, sì, perché sennò si rischia. Cioè, dopo uno in questo paese poi si esagera sempre, vuole esagerare anch'io, no? Cioè, adesso ogni omicidio ci bisogna andare a vedere se, a che squadra tiene, allora diciamo iniziamo a farla sulla politica. Era un comunista che è stato ucciso da un fascista. No, vabbè, però, però è evidente che la circostanza, il contesto non è quello di un concerto, di una manifestazione, o di il contesto è quello di una partita di calcio, e dunque l'oggetto del contendere è quello, cioè la cornice è quella, e ciò è incontestabile, può farlo impazzire oppure no, è un episodio di criminalità e siamo d'accordo, però la cornice rimane quella dello sport e di una partita di calcio, non si scappa tanto di lì, non è questione della sciarpetta o mica della sciarpetta. Mi sono al momento un po' stufato, ma poi riprendiamo, eh? 800 24 00 24. Voglio però fare una digressione che mi piace molto e che faccio con grande piacere con Massimo Oriani, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Che non scrive abitualmente di striscioni e di sentenze, ma di pallacanestro. E allora, per fortuna. Sei una gran fortuna, eh. Sei un fortunato. Esatto. Senti, no, si è disegnata nella notte la griglia dei playoff NBA che da noi sono, come sappiamo, dico una banalità, ma seguitissimi. E con due colossali sorprese, cioè no Oklahoma del più forte, uno dei più forti giocatori del mondo, Kevin Durant, e di un altro Russell Westbrook, no Indiana Pacers. Ma direi che l'Indiana Pacers lascia il tempo che trova la loro esclusione, perché stiamo parlando di morti contro feriti gravi, sì, negli ultimi posti ad est. Forse con l'eccezione, qui verrò accusato di essere il tifoso dei Celtics e lo sono, di Boston, che perderà 4-0 con Cleveland, però ha un progetto, sta costruendo qualcosa, ha delle basi solide, ha un futuro roseo davanti perché ha tante scelte, ha possibilità di andare sul mercato dei free agent. I Nets sono l'esatto opposto per aver venduto l'anima ai Celtics l'anno scorso, sì, cioè una valanga di scelte per prendersi Pierce e Garnett. Indiana ha pagato il fatto di non aver avuto praticamente per tutta la stagione Paul George, certo, che è rientrato ma babbo morto. E si è rifatto male stanotte, tra l'altro, uscendo con un polpaccio malconcio portato via braccia, forse ha forzato i tempi del rientro inutilmente, sì, cercando di arrivare ai playoff. Sì. Dall'altra parte invece fa molto più male vedere fuori Oklahoma City, perché appunto se di qua entrano squadre con bilanci negativi, e Boston è 40-42, ma le altre sono dietro ancora, di là restano fuori squadre come i Thunder, che chiaramente restano fuori perché hanno perso Kevin Durant e Serge Ibaka per strada. Il lato bello della medaglia è che vedremo Anthony Davis, che secondo me è un giocatore che nel giro di 2 anni dominerà l'NBA. Boston, tra l'altro, con un contributo alla fine decisivo da Tome, 22 punti anche nella notte, ma comunque ha messo un mattone, il suo primo mattone nell'NBA con quella maglia lì. Ha trovato la squadra giusta, al momento giusto, l'allenatore che crede in lui, che lo fa giocare. E direi che la partita di stanotte, totalmente influente a livello di classifica, però averlo fatto partire in quintetto, avergli dato fiducia e il fatto che lui l'abbia ripagato con una bellissima prestazione, vuol dire che c'è un rapporto, un feeling ottimo. Poi bisogna vedere se da Tommy vorrà aspettare eventualmente i Celtics quest'estate, una volta fatta la squadra, vedono se c'è posto per un nono, decimo, undicesimo uomo di cui si fidano ciecamente, che piace tantissimo all'allenatore, che piace tantissimo alla società, o se invece decide che vuole tornare a fare il protagonista in Europa. Senti, Easter Conference, Atlanta Hawks sono la squadra più sorprendente della stagione, anche quella che ha giocato il basket migliore. Milwaukee Bucks monitorati, sorvegliati speciali, perché hanno fatto qualcosa di incredibile, tutti a caccia di Cleveland, che si qualifica con il secondo record della Eastern. Assolutamente sì, concordo al 100% con quello che hai detto. Atlanta giocano come gli Spurs, non a caso Budenholzer e Scuola Popovic, sono un orologio per un meccanismo perfetto, soprattutto in difesa. Io ho avuto l'occasione di vederli dal vivo quest'anno, sono una roba spaventosa in difesa, per come aiutano, recuperano, come giocano di squadra. Milwaukee, francamente, non sarei mai aspettato che arrivassero da 15 vittorie, peggior bilancio in assoluto la scorsa stagione, soprattutto perché non avevo stima di Kidd come allenatore, mi devo ricredere. Grande stagione di Jason, assolutamente, sì, protagonista lui, anche perché pensiamo che hanno perso Jabari Parker, scelta numero 2 assoluta, e sono riusciti lo stesso a arrivare ai playoff, hanno perso Larry Sanders per diversi motivi, hanno ceduto Brandon Knight, gli è arrivato Michael Carter Williams, che gioca in un determinato modo ma chiaramente molto diverso rispetto a Brandon Knight, e lui è riuscito a trasformarli tutti a caccia dei Cavs di LeBron, e credo che nessuno li prenderà, francamente. Credo anch'io che nessuno li prenderà, ma dall'altra parte come al solito Western molto più paludosa per chi vuole emergere, perché gli Spurs sono i grandi favoriti, caccia aperta ai San Antonio Spurs, però partono in senza fattore campo con i Los Angeles Clippers. E soprattutto Houston, da una parte del tabellone di Houston, che troverebbero il secondo turno. La sconfitta di Sonati li ha penalizzati in una maniera pesantissima, anche perché sono passati dal secondo al sesto posto. Questo per dire cos'è l'Ovest quest'anno. Sono entrati in forma al momento giusto, hanno recuperato giocatori chiave come Parker, che non era in forma, come Leonard, che era infortunato. Io prima di dire che sono morti, mi sono già sbagliato una volta, meglio che stia zitto. Però francamente i Warriors secondo me quest'anno hanno qualcosina in più. Warriors hanno qualcosina in più? Io dico di sì, perché si continua a dire ma sono troppo molli un po' sotto canestro, i playoff, un'altra palla canestro, sì vero, ma il talento offensivo che hanno e il fattore campo, che forse è uno dei due, tre pochi nell'NBA che si sente veramente, potrebbe alla fine fare la differenza. Quindi tu dici potremmo avere Cleveland contro i Warriors per una finale, facendo un po' il tabellone alla Obama. Sì, in questo momento, anche se non è il mio presidente preferito, per usare un eufemismo, in questo momento direi di sì. Se dovessi puntare su due finaliste, metterei la mano sul fuoco per i Cavs, la terrei un pochino più alzata rispetto alla fiamma per i Warriors, giusto per il grande rispetto che ho per San Antonio, per quello che sa fare nella postseason. E però veramente secondo me alla fine il calendario potrebbe veramente pesare, perché arrivare contro i Warriors a una finale eventuale dell'Ovest, dopo aver dovuto buttare fuori Clippers senza fattore campo, io Rocket senza fattore campo, potrebbe essere pesante. Io voglio vedere il più a lungo possibile da qui alla fine della stagione Stephen Curry. Voglio veder tirare Stephen Curry, questo è il mio motto. E beh, non ti do torto, perché non so, io non ma neanche Ray Allen neanche che tira così bene. E non è una bestemmia. L'ultima cosa, Massimo, derby invece dalle nostre parti, tutto esaurito, Adesio per Meta World Peace contro Milano, è molto più importante per Meta World Peace, cioè per Cantù, che per Milano. Ho letto strane dichiarazioni, ti dico la verità, di Sacripanti, cioè la sua presenza è importante ma condiziona un po' gli altri. Secondo me sono gli altri che devono non farsi condizionare dal Meta World Peace, perché se hai un paio degli attributi, arriva a Meta World Peace, fai un passettino indietro, ti adegui a giocare con un giocatore peraltro che è tutt'altro che un mangiapalloni, un individualista, ma cerca di giocare per la squadra, e se sei Sacripanti fai il massimo per riuscire a coinvolgerlo, cosa che devo dire sta facendo nei giochi di squadra. Non è semplice, perché il tempo a disposizione è stato poco, le partite sono state tante, adesso c'è questo recupero che gli dà ancora meno tempo per allenarsi e quindi per integrarlo. Lui, come ha detto proprio oggi sulla Gazzetta, è arrivato un attimo in cui si è un po' impallato perché era fermo da tempo, infatti a Venezia, però insomma, valutare la squadra a Venezia, valutare Meta a Venezia, visto quello che ha fatto la squadra, è difficile, perché per la prima volta io ho visto Cantù mollare, sì, cioè proprio mollare, dire basta, ed è stato un bruttissimo segnale. E per questo io credo che stasera vedremo una Cantù diversa, al di là del fatto che in casa, Pianella o Desio che sia, è un'altra squadra. In trasferta quest'anno ha vinto a Caserta, a Pesaro, cioè ultima e penultima, e ad Avellino quando ci vincevano. E può avrà Reggio Emilia, che sarà un'altra cosa difficile. Grazie Massimo. Lì sono altri due punti andati. Ho paura di sì. Pesano molto quelli di stasera. Grazie Max, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Massimo Oriani. Torno agli ascoltatori, 800 24 00 24. Igor Da Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo parlare un attimo del discorso dei tifosi. Certo. Allora, siccome ci sono anche la parte buona dei tifosi, sono tantissimi. Io sono una persona che sinceramente credo che nelle curve, poi al di là del tifoso vero della squadra, ci sia quello del gruppo, cioè nel senso persone che vanno per ideali politici, non c'entra nulla col tifoso della squadra. Ma guardi, secondo me ideali politici sono un po' passati di moda, sono più che altro ideali economici in questo momento, ho l'impressione, Igor. Cioè io la mia impressione è che sì, politico non cioè, ripeto, però che l'aspetto tifoso della squadra poi passi in secondo piano, ci siano altri interessi. Se uno è tifoso della squadra, dallo striscione cretino come è stato messo lì o un altro, non c'entra nulla, te stai per la tua squadra, punto e finito discorso, ti interessa altro. Sei deluso quando perdi e sei contento quando vinci, e non c'è il tifo contro. Faccio un piccolo discorso. Ieri sera ho visto Paris Saint-Germain Barcellona. Al di là dell'aspetto calcistico bellissimo, che Barcellona è uno spettacolo, sembrava di essere un po' a teatro, nel senso che è un tifo che si esalta in determinati momenti, se no non è tipo quello che abbiamo noi che va un po' più folcloristico, no? Beh, a Parigi anche una tifoseria che si è creata da poco, cioè da quando sono diventati molto ricchi e molto forti. Non era un posto dove c'era un particolare ambiente, eh? Carlo, per te era questo. Io nella nazionale ho visto Verratti, no? Sì. L'ho visto in Paris Saint-Germain, ma mille val di fiori, perché sinceramente la nazionale mi sembra spaesato, timido, che praticamente non si propone. O è un discorso proprio che quando gioca nel Paris Saint-Germain riesce a essere un tipo di giocatore, però la nazionale sembra uno dei tanti. Sì, uno dei tanti, di personalità ne ha un sacco. L'unica cosa è che bisognerebbe decidersi a dargli le chiavi della squadra e a trovargli quella collocazione che occupa stabilmente, non è difficile, che stabilmente occupa nel Paris Saint-Germain, dove gli hanno consegnato la squadra e lui gioca a questi livelli di Champions League. Ieri sera non c'era e si è visto, questo è un ulteriore argomento a favore di questa tesi. Grazie Igor, chiudo con Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ciao Carlo. Perché la polemica corre sui tweet, non solo tra Pallotta e la sua tifoseria, ma anche nel rugby. C'è questo scazzo in piena regola tra il presidente federale Gavazzi e la squadra azzurra, no? Nato da un tweet: il presidente dei pensionati sono stanco, al 15° posto del ranking non sono andato io, e il blocco compatto della squadra ha risposto con un hashtag: portaci rispetto. Sì, sì, in realtà questa frase del presidente Gavazzi risale alla settimana scorsa. In sostanza lui, al di là di questo dei pensionati sono stanco, che è una cosa che naturalmente può portare la suscettibilità dei giocatori, ha detto che per il prossimo mondiale, che ci sarà a settembre-ottobre in Inghilterra, riteneva giusto non pagare più gettoni di presenza ai giocatori, ma pagare un premio maggiorato rispetto al passato in caso di passaggio del turno. Quindi gli italiani non prendono un gettone di presenza se non passano il primo turno, altrimenti prendono 50.000 euro a testa, che a livello calcistico sembra poco, a livello rugbistico non lo è. Io sono abbastanza d'accordo con questa posizione. Io sono d'accordo, sono pienamente d'accordo anch'io, anche se devo dire posso capire che i giocatori si siano sentiti un po' punti sul vivo, che abbiano visto in questo magari una mancanza di fiducia, però voglio dire, questi sono dei professionisti che vengono comunque pagati per fare il loro mestiere, che giocheranno a settembre, a ottobre per la nazionale anziché per il loro club, e quindi se ottengono un risultato difficile finché si vuole, è giusto che abbiano una ricompensa anche più alta, certo, del solito. Ma sai, è una mossa un po' rivoluzionaria, perché esce dalla logica del vabbè, partecipiamo, siamo bravi, simpatici, belli, se perdiamo fa niente. Esce un po' da questa logica e dunque a maggior ragione appoggio la posizione presidenziale. Ma diciamo che in ogni caso è una cosa abbastanza logica, se vogliamo. È una cosa abbastanza logica, anche perché poi un giocatore che arriva in azzurro sicuramente lo fa per propri meriti, ma attraverso la maglia azzurra assume già una rivalutazione della sua immagine, può ottenere dei contratti all'estero. Un guadagno indiretto, diciamo, certo. Non lo diciamo così in linea teorica, perché l'anno prossimo Venditti, ad esempio autore di due mete quest'anno al Sei Nazioni, giocherà in Inghilterra al Newcastle, Favaro va a Glasgow, Campagnaro va a Exeter, quindi la nazionale è anche una vetrina. Di tutto quello che ho sentito dire, la cosa che mi sembra meno logica è quella che è emersa da un rappresentante dei giocatori, presidente della Gira, che ha detto: a questo punto i giocatori sarebbero anche liberi di non rispondere alle convocazioni in nazionale. A me, senza scendere troppo in particolari, Carlo, viene un po' in mente la storiella di quel famoso marito che voleva fare un rispetto alla moglie, eccetera, eccetera. In un modo un po' bizzarro. Grazie Giacomo, alla prossima. Ciao. Grazie a Giacomo Bagnasco, a Daniele Bonamici, a Alessandro Marco Tulli in redazione, a Pietro Accorti in regia. Ci sentiamo domani alle 2, ragazzi. Ciao. Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani, provincia di Bari. Sì. contento di aver vinto.